Basta. Viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata di Radio Next. Oggi, a differenza delle puntate tradizionali, non andremo in onda con la nostra scheda perché andremo a parlare direttamente con Eleonora Rocca, che è il CEO e il founder dei Mashable Social Media Day, un evento che si è tenuto a Milano a metà di ottobre. È un evento sui social media e racconta la trasformazione digitale e quello che sta cambiando all'interno della nostra società da un punto di vista del digitale. E allora, buongiorno, benvenuta, com'è andata? Grazie mille intanto per avermi invitata per la seconda volta. Com'è andata? È andata benissimo, e non lo dico soltanto da fondatrice, ma lo dico perché i nostri numeri lo dicono. Oh, raccontaceli. Allora, abbiamo avuto 1170 partecipanti, quando teoricamente avevamo settato un target di 900, quindi siamo andati assolutamente oltre. Al di là del... Poi 22.000 mention in 3 giorni, perché è stata una 3 giorni, con l'hashtag SMDIT. Quindi quello... su Twitter e anche su Facebook. Sono stati generati 22.000 post che raccontavano appunto, che comunque richiamavano questo evento. Esatto. E in più abbiamo visto con sorpresa positiva che anche il nuovo hashtag che avevamo introdotto quest'anno, D-Days, a diciamo rappresentazione di Digital Innovation Days, che è quello che abbiamo legato al vecchio Social Media Day, adesso vi spiego poi anche perché, ha registrato 11.000 mention, quindi anche questa è stata una sorpresa positiva, nel senso che non ci aspettavamo un così grande interesse anche da questo punto di vista. Molto quindi, bene, direi, quindi un'estrema soddisfazione da un punto di vista dei risultati. Assolutamente sì, anche perché i feedback arrivati anche via mail, anche via Messenger su Facebook, anche su Twitter, parlando direttamente con noi da parte dei partecipanti, sì. E sono stati tutti super positivi. Non abbiamo un commento negativo. Quindi... No, molto bene, molto molto bene, sono molto contento. Perché un'azienda dovrebbe approvare la richiesta di una persona, magari non un digital manager, ma di una persona che lavora anche con il digital, quindi nel mondo della comunicazione, del marketing, a partecipare a questo tipo di evento? Ma a mio avviso perché è importante per chi fa il nostro lavoro, quindi per chi si occupa di digitale, inteso non solo come social media ma come proprio digital transformation, strategie digitali, essere, come dire, up to date, come si dice a Londra, nel senso essere aggiornati su tutto quello che succede. E siccome è un mondo che si muove in maniera estremamente veloce e ogni mese, ogni anno succedono cose nuove, è assolutamente fondamentale per chi lo fa, per chi è del settore, conoscere e capire che cosa sta succedendo. On top a questo c'è anche chi non si è mai approcciato al digitale. Ad oggi in Italia comunque la digitalizzazione sta andando bene, però c'è ancora molto da fare. C'è ancora un gap da colmare. Esatto, per queste persone è importante capire che risultati si possono ottenere. Da un punto di vista di business, sì. Secondo te la partecipazione a questo tipo di eventi permette di raccogliere degli insight importanti, o il rischio è quello, se non si è preparati, se non si è del settore, di magari non riuscire a capire, di essere un pochino uno di quegli eventi troppo da tecnici, no? E quindi eventi solo per quelli specializzati in questo settore? Ma secondo me no. Allora, senz'altro, rispetto ad altri eventi di settore sul territorio nazionale, mi sento di dire che il nostro probabilmente per un audience che è più o meno piuttosto senior, forse un pochino più senior, questo assolutamente sì. Però io credo che il format di case study che ho scelto per far presentare i relatori aiuti molto anche chi non ci lavora, perché la case study è un esempio, no? La case study è dimostrare che cosa si è fatto con la strategia e quali risultati si sono ottenuti. Quindi in quel caso, anche se non si capiscono i tecnicismi, però si può prendere ispirazione e fare magari dei tentativi anche più in piccolo nella propria realtà. Tu con questo evento dei Mashable Social Media Day ti sei occupata di marketing, ti sei occupata di social media, ti sei occupata di trasformazione e di strategia. Sì. Ma se un'azienda volesse organizzare un evento del genere, magari su un argomento completamente diverso, può essere l'e-commerce piuttosto che potrebbe essere il blockchain, il fintech o comunque qualsiasi altra area della trasformazione digitale, ritieni che possa essere un modo, una modalità positiva o utile per l'azienda per poter approcciare l'educazione del mercato, o rischia di essere l'ennesima fiera, l'ennesimo evento che va a soddisfare più che altro palati ormai avvezzi a questo tipo di eventi? Ma secondo me no, secondo me invece potrebbe avere valore per qualunque tipo di azienda, più che altro se si va anche a selezionare il target che si invita, prima di tutto, nel senso che se un'azienda ha un particolare obiettivo di prendere persone, aziende, professionisti del settore, per esempio fintech, ha senso fare una campagna, fare delle campagne comunque mirate ad avere le persone che si vogliono avere all'interno della sala. Inoltre, come abbiamo fatto anche quest'anno, anche se in fase comunque ancora embrionale perché l'abbiamo fatto per la prima volta, organizzare all'interno dell'evento, oltre al discorso speech, discorso business matching, quindi permettere all'azienda organizzatrice o comunque anche alle aziende partecipanti di in qualche modo incontrarsi e capire se ci sono opportunità di business. Chiaro che poi l'azienda deve essere in grado di fare follow up, perché non basta ovviamente sedersi e prendere un caffè, però garantire il giusto valore dello scambio di biglietto da visita, che secondo me spesso molto manca. Chiaro, molto chiaro. Voglio addentrarmi adesso con te, vista la tua esperienza, su un paio di su un paio di suggerimenti da dare a chi invece partecipa come speaker. Sì. Perché spesso ci ritroviamo ad avere presentazioni che magari non sono altro che, non vanno tanto più in là della presentazione aziendale. Allora, innanzitutto, lo speaker, che tipo di presentazione, che tipo di storytelling, di racconto deve portare sul palco? Che cosa richiedi tu? Allora, su questo io sono abbastanza, diciamo, talebana, se così posso dire, nel senso che comunque assolutamente non voglio quello che si chiama, si usa in gergo dire, marchette, nel senso che non è la marchetta che genera valore, no? Nel senso, si può parlare di un prodotto o di un servizio che si vende, che si offre, ma non deve essere l'elemento centrale. L'elemento centrale deve essere ispirare, portare case study concrete e portare risultati concreti. Questo è quello che fa la differenza. Perché? Perché quei risultati devono poter essere applicati da chiunque ascolta nella propria vita quotidiana, magari non tutta la strategia, ma alcuni pezzi. Quindi devono essere, non dico neanche troppo tecniche, possono essere anche ispirazionali, purché ci sia originalità, purché ci sia una persona che viene lì e ti dice: ho provato a fare questo, magari non mi aspettavo questo risultato, invece è stato particolarmente positivo, perché? E generare valore, generare curiosità, generare apertura anche della mente delle persone che ascoltano. Quali, secondo te, quali sono gli elementi che generano o che determinano maggiormente il successo di un intervento sul palco rispetto ad altri che ci possono essere durante la giornata? Anche perché rispetto ad altri eventi, per esempio il Mashable, ne ha avuti veramente uno dietro l'altro molto serrati, no? Ogni 20 minuti, mezz'ora c'era un nuovo intervento, per cui si continuava a cambiare argomento. Ecco, cosa può determinare il successo vero di un intervento rispetto a un altro? Allora, intanto il discorso, voglio solo spiegare, il discorso dei 20 minuti e di averlo comunque così attaccato è stato fatto apposta, proprio certo. Perché l'anno scorso li ho fatti di 30 minuti e ho notato che l'attenzione comunque calava, proprio perché ce ne sono tanti e effettivamente 20 minuti è quello che permette alle persone di rimanere, diciamo, incollate. Ecco, che cosa determina il successo dello speech? Secondo me, allora, il contenuto, ma anche come viene presentato, nel senso che lo speaker deve essere in grado di coinvolgere l'audience. Ecco, come si fa a coinvolgere l'audience? Bisogna, allora, per quanto mi riguarda, ho visto che insomma capita molto spesso che le persone si emozionino, perché io di solito metto molta passione in quello che dico, in quello che racconto, no? Si percepisce che ci credo in quello che sto facendo, e questo secondo me fa la differenza. Quindi bisogna saper trasmettere la passione anche che si ha per il proprio lavoro e anche, come dire, il pride, l'orgoglio di portare lì qualcosa che ha avuto successo, qualcosa che è piaciuto, qualcosa che ha magari stupito positivamente chi l'ha fatto, chi l'ha messo in piedi. Quindi questo secondo me le persone lo percepiscono. È incredibile quanto l'energia si possa trasmettere in una sala o anche attraverso i social media, è un po' la stessa cosa. Eleonora, allora dacci tre suggerimenti di cose da non fare quando si parla su un palco di fronte a quasi 1000 persone, come erano quelle che partecipavano ai Mashable Social Media Day. Allora, la prima cosa, sicuramente non annoiare, quindi cercare di mantenere la voce in qualche modo alta e carina e intrigante, e non essere autoreferenziali, nel senso di lì dire io sono, io faccio, io ho detto, perché questo non piace mai, specialmente agli italiani. Tre, non aprire evitare di aprire le domande, cioè è giusto stimolare la curiosità dell'audience e far sì che ci sia uno scambio, anche se fosse solo una domanda, perché di solito noi possiamo far fare solo una domanda, massimo due, però il relatore deve essere aperto a questo, deve spingere alla partecipazione. Sì, esatto. Alla partecipazione. Eleonora, allora intanto grazie mille di essere tornata con noi. Abbiamo avuto il piacere di ospitare nuovamente Eleonora Rocca, founder e CEO dei Mashable Social Media Day, che spero per il 2018 di avere ancora con noi a raccontarci com'è andata. Anche per questa puntata di Radio Next è tutto, grazie per averci seguito e per essere stati con noi. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Stefano Sfondrini, che mi segue sempre in questa meravigliosa cavalcata, e Gianmarco Ferronato, che oggi in regia ci ha assistito. Vi ricordiamo che potete trovare gli approfondimenti a questi argomenti sul sito della Business School del Sole 24 Ore. Per qualsiasi provocazione, idea o consiglio, vi ricordo il nostro indirizzo di posta radionext@radio24.it. Noi ci sentiamo in podcast, nella versione estesa o prossimamente con una nuova puntata di Radio Next. Un saluto da Pepe Modera.